Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Allora, Berlusconi domenica scorsa si è fatto fotografare con un cagnolino. Lei sì. Sarebbe disposto ad adottare un cucciolo che noi le regaliamo? Questo... Dai, proviamo. Questo è un vile ricatto. Proviamo, io provo a mettermelo in braccio. Guardi che carino. Oddio, ma che meraviglia. Molto carino. No? Vediamo come si comporta col cucciolo. Beh, abbastanza bene, direi. Sembra tranquillo. Perché mi ha trovato un po'... Si chiama Trozzi, mi sembra. Trozzi. Come si sente Trozzi con questo cucciolo in braccio? Ma guardi, magnificamente bene. Guardi, sa perché... Sa perché mi ha trovato un po' empaticamente freddo quando ha parlato di adozione del cagnolino? Pensava che vedessi un neonato, io volevo farlo, ma non mi è andato il permesso. No, ho capito che era un cagnolino, ma e poi avevo purtroppo visto, per la signora Bignardi, i neonati ancora non sono disponibili ai canili e quindi è dovuta ripiegare sul povero Trozzi. La sorte di Trozzi, naturalmente, che già è stato ribattezzato, si chiama Empi adesso, in sole poche ore già perso la sua identità, oltre aver perso la sua libertà, può starmi a cuore come mi sta a cuore la sorte di tante persone sofferenti, siano essi i nostri cari amici a quattro zampe, siano essi esseri umani bipedi come la specie a cui noi modestamente e senza nessun merito apparteniamo. Ma questo ha provocato una forte reazione nel mondo canino, che io non posso fare a meno di registrare, anche perché questa mattina, volente o nolente, devo farmi portavoce di una robusta, nutrita e anche abbastanza arrabbiata rappresentanza sindacale. Non so per quale ragione abbiano scelto me, proprio me questa mattina, forse perché sanno la mia innata, profonda, viscerale passione per i nostri cari amici pelosi a quattro zampe, ma ho il mio studio... espropriato, ma è un termine brutto, non vorrei offendere le persone, ma da questi amici a quattro zampe che sono qui per rappresentare la loro istanza, la loro protesta. Hanno una piattaforma ben precisa di punti che vorrebbero discutere questa mattina con noi e io devo farmene portavoce. Primo, il più urgente, Empi e Vittoria liberi subito. Non si può, non possono tollerare, non sanno nulla del destino di questi loro due amici. Vittoria si è allontanata alle nebbie, abbracciata a Silvio Berlusconi. Empi, lo sappiamo perché abbiamo avuto l'ultima notizia ieri su Twitter, pare che sia a casa Monti, rivorrebbe innanzitutto la sua identità di Truzzi, vorrebbe richiamarsi Truzzi come è stata battezzata dai suoi genitori, ma in realtà non sappiamo bene che fine abbiano fatto. Quindi chiedono prima di tutto la liberazione e la riconsegna alla comunità canina dei poveri cani pulciosi abbandonati, che sono felicissimi di essere abbandonati. La seconda istanza dei nostri cari amici, che si sono in questo momento uniti, ho portato anche le mie tre cagnoline naturalmente perché in qualche maniera mi salvaguardano dai sindacalisti canini che sono piuttosto arrabbiati, virulenti, con la virulenza che il sindacato ha perso nel mondo degli uomini ha riacquistato nel mondo dei cani. Quindi abbiamo, e vi salutano in questo momento in primo piano, Ciccia, Baffa e Pallina, che sono le mie tre cagnoline che avete già conosciuto in altre trasmissioni. Il secondo punto chiedono questi cani è: come mai noi poveri cucciolotti abbandonati, pulciosi e massacrati, che stavamo tanto bene nella nostra condizione di cagnolini meticci, liberi, felici, sguazzavamo nel pattume, correvamo per le strade, ci inseguivamo, trovavamo sempre un ristoratore che ci dava degli ottimi spaghetti con le polpette che mangiavamo assieme alle nostre amiche cagnoline, improvvisamente siamo sottoposti a questa terribile vessazione, a questa indicibile tortura. Immaginate voi cosa... come vi potreste sentire, voi esseri umani, se foste strappati dal vostro habitat naturale, qualcuno vi prendesse e vi mettesse, che ne so, tra le braccia di un anziano signore, ma essendo voi esseri umani non vale il paragone. Immaginate, trovavi, che ne so, fra le braccia di un grosso gorilla anziano, preso appena dalla giungla, che vive nel suo strame. Quanto c'è più terribile nella razza dei gorilla, delle scimmie, nella specie dei, appunto, dei primati. E siete costretti a baciarlo, a farvi sbaciucchiare, abbracciare, portare in braccio, andare a casa sua, mangiare il suo cibo, vedere i suoi familiari. Immaginate quale terribile tortura. Quindi per questi cagnolini che sono stati presi in braccio, improvvisamente avvolti nella naftalina delle grisaglie, avvolti nei peli cadenti, avvolti negli strati di cerone, avvolti in tutto ciò che sa di anziano, di vecchio, di antico, che è l'antitesi della felicità e della libertà di un cucciolo, e costretti appunto a questa tortura. Beh, questa mattina noi daremo libera possibilità di espressione a tutti i rappresentanti di poveri cuccioletti abbandonati e cercheremo di capire perché, per quale ragione in questo momento l'oggetto emotivamente più forte, perché se lo sceglie la politica non c'è nulla equiparabile al piccolo cucciolo puccioso abbandonato. In altri tempi, mi ricordo, quando c'erano quelle belle antiche campagne di democristiani, c'era sempre una mamma prezzolata che nel momento giusto prendeva l'infante e lo metteva tra le braccia dell'uomo politico, che fingendo amore e tenerezza comunque lo abbracciava, anche se erano tempi in cui non esistevano i pannoloni super continenti, quindi era un pacchettino bello completo e bello farcito, lo prendeva, lo abbracciava, facendo delle foto con i flash, e quello serviva a colpire. Ma perché oggi c'è stata questa sorta di viraggio? Dagli esseri umani teneri, abbandonati, indifesi, si è passati improvvisamente ai cani? Questo ci dovremmo chiedere, e voi mi aiuterete a rispondere assieme naturalmente alla folta rappresentanza sindacale dei cagnolini abbandonati, che è qui nel mio studio. 800 24 00 24. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Bruno Ballardini, esperto di marketing e comunicazione strategica, ha scritto un libro di cui abbiamo parlato poco tempo fa, Gesù e saldi di fine stagione, perché la Chiesa non vende più, PM Edizioni. Ma pare che anche la politica non venda più, se è dovuta ricorrere agli stessi elementi emotivi che noi vediamo nei 90 piani di morbidezza, che sono appunto i cagnolini. Come te lo spieghi? Ma questa è una strategia tra le più perfide utilizzate in natura, lo dicono gli etologi, cioè le specie più evolute, nella fattispecie diciamo quelle più feroci come quella umana, a volte si fanno scudo con i cuccioli come scudo umano indurre in tengo buoni i sindacalisti, sono un po' arrabbiati, non aggressivo, lo so, mi rendo conto, anch'io capisci la loro situazione, vedere, tu immagini di vedere, che ne so, un tuo nipotino, un tuo figlio preso, rapito, strappato ai suoi affetti e portato via in braccio da un anziano signore per abbassare l'aggressività di altre specie feroci. Ora però noi qui abbiamo visto nella fattispecie una iena come la Bignardi mettere in braccio a un rettile, un'anaconda che ha stritolato l'economia italiana. Siamo in par condicio, non puoi dirlo, devo fare delle distanze. Ovviamente poi parleremo anche dell'altro cucciolo messo in braccio a un caimano, però il discorso è semplice, è sempre questo: far credere che questi animali feroci abbiano una tenerezza, abbiano in fondo una sensibilità e quindi siano inoffensivi e quindi possiamo fidarci. Questa è la strategia. Perché Bruno, guarda, io ti faccio un'analisi puramente estetica, quindi mi prendo il peso di estrapolarla da quella che è il dibattito politico. Se insomma degli uomini rappresentativi e importanti in questo momento, centrali, hanno pensato di associare la loro immagine, perché c'è sempre detto una strategia, niente avviene per caso, non è che la Bignardi prende un cane, lo tira fuori, lo mette in braccio a un leader politico senza che lui sia stato d'accordo 100.000 volte. Ha un cognome, un nome che sembra il cognome di un operaio. Trozzi, ma infatti l'hanno cambiato subito, Empi come empatia, esatto. Capito? Diciamo, mi sembra molto singolare, perché è una totale antitesi. Avrei capito il piccolo bambino, avrei capito l'orfanello, avrei capito il malato terminale, avrei capito il poveraccio, avrei capito il barbone, avrei capito il derelitto, avrei capito tutte le leve possibili dell'emotività, ma non riesco a capire come mai è venuto fuori il cucciolotto. Io mi ero fatto questa domanda giorni fa con Filippo Ceccarelli Studio e ho provato a associarlo a una sorta di tentativo di ventata giovanilistica, dato che tu, come sai bene, nei social network l'elemento emotivo limaccioso in cui tutti galleggiano sono cagnolini, gattini abbandonati. C'è un signore, un nostro amico, che ha trovato che la maniera migliore per alzare un po' di compagnia femminile nel web è quello di simulare di essere amici degli animali, mettere foto su foto di gattini, di cucciolotti, così trovi sempre una buona anima, dici quanto sei tenero, quanto sei dolce, gli uomini che amano gli animali amano anche le donne. Esatto. È così? È così, ma questo lo vediamo anche dalla pubblicità, cioè c'è sempre una mascotte. Perché non si usa il neonato? Perché sarebbe un po' telefonata la cosa, è un po' troppo facile, un po' un gioco scoperto. Invece comunque sul cucciolo del gatto, del cane, tutti concordano, e quindi chi ce l'ha in braccio è sicuramente per forza una persona sensibile di cui ci possiamo fidare. Ecco, però mi sta ricordando qua il sindacalista, dice sì, però il cucciolo non può scegliere, il cucciolo non ha una sua capacità di determinare il suo affidamento temporaneo come oggetto pubblicitario. Ci vorrebbe in realtà un comitato di difesa dei cuccioli che definisce e sancisce le situazioni in cui anche un cucciolo può essere esposto come testimonial. Questa è una battaglia che viene portata avanti su più fronti, dal giurì fino alle associazioni come la Lega Antivivisezione, eccetera, sull'uso improprio degli animali. Ma poi secondo me è una questione di civiltà, perché gli animali hanno una loro dignità, hanno una loro persona che noi dobbiamo rispettare, e quindi senza fare dell'animalismo talebano, come può essere il femminismo per altri aspetti, per gli animali femminili, chiamiamoli, devo dire, è una questione di livello culturale di un paese. In altri paesi queste cose non accadono, o accadono molto di meno. Oddio, ci sono sempre i casi come Obama... Diciamo Obama, che i presidenti americani hanno dato il giusto. Sanno farlo, però il cucciolo è integrato all'interno di una vita... diciamo all'interno di una vita umana, e ha una sua dignità e rispetto. Anche la regina d'Inghilterra con i suoi beagle, diciamo, c'è abbastanza esposto, sì. Ecco, però da noi abbiamo ancora il livello un po' barbaro della mascotte. Ecco, questo è l'animale oggetto, il cucciolo oggetto, quindi aderisco anch'io sicuramente al Comitato di Liberazione Cucciolotti, potere cucciolotto. Grazie Antonio, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Pronto? Sì. E anche ha chiamato per solidarietà della battaglia di questa mattina, della manifestazione dei rappresentanti sindacali dei poveri cuccioli abbandonati? Sì, ho telefonato perché sono contrario alla strumentalizzazione dell'animale. Cucciolo, la stanno apprezzando. Ma anche del cucciolo dell'uomo. Anche dei bambini. Sì, però in questo momento vuole mettere al centro dell'attenzione, nell'occhio del mirino, sono i cucciolotti. In questo momento i bambini stanno tranquilli, vanno tranquilli per i giardinetti. Sono d'accordo per essere usati nella pubblicità i bambini. Nessuno glielo chiede perché non possono esprimere il loro parere. Sì, però portano dei buoni soldini in casa, i genitori sono contenti. Questo portano dei soldini in casa, però questa strumentalizzazione non porta nessun risultato se non quello del buonismo. Ma adesso trascuriamo per un attimo la specie umana, che in questo momento ha altri problemi. Sulla specie dei cagnolini, sulla specie animale, a lei commuove vedere un signore che prende un cagnolino in braccio, dice quanto mi sta simpatico. Una questione che fa sfilare un cucciolo che si chiama Striscia la Notizia. E secondo me questo è un maltrattamento dell'animale. Se in realtà quell'animale ha una sua privacy, si vorrebbe difendere, anche molte volte si vede in posizioni non propriamente che danno il massimo di sé, molte volte si vede poverino, insieme alle veline, e lo fanno così trotterellare sul tavolo, almeno coprissero le vergogne di quel cane. Veramente anche su questo bisognerebbe alzare un velo, o almeno pixellare le parti intime di quel cane, che molte volte sono praticamente esposte alla telecamera in maniera invericonda. Sono d'accordo con lei. Michelangelo. Sì, buongiorno. Allora, no, molto rapido, io credo che è soltanto un malessere soltanto italiano, perché un leader politico, che piaccia o no, ha fatto un gesto di quel tipo e tutti a ruota hanno seguito questa cosa. Quindi credo che noi dobbiamo molto imparare da un gesto di questo tipo, di come la leadership può come dire, influenzare anche voi media riguardo a un gesto che forse francamente in un paese magari civile e magari anglosassone sarebbe stato visto come, come dire, anglosassone, come un piccolo... La regina Elisabetta con i cani, sappiamo tutto, ma... il vomitino, la diarrea, è nato, vero, è morto. Sì, però sappiamo c'è una cultura diversa, mi scusi Nicoletti, io, lei ha tutta la trasmissione, io ho soltanto 10 secondi. No, la faccio parlare. Semplicemente per dire questo, che forse dobbiamo imparare un po' di più. Zitto. E invece il suo interlocutore scusi, gliel'ha zitti, anche voi, detto. Cuccia. Da prego, prego. Continui, no, non ero io. Il suo interlocutore, il suo ospite gliel'ha anche detto e credo che noi dobbiamo imparare come paese Italia a, come dire, a guardare queste cose con un po' più di leggerezza e soprattutto... Io lo farei volentieri se non fossi obbligato in questo momento. Poi finisco. Quello che lei dice è semplicemente per avere consenso politico e questo è il male dell'Italia, per delle sciocchezze noi... adesso sappiamo che Monti ha 2% in meno rispetto a quello che aveva l'altro ieri, notizia ieri di Porta a Porta. Per cui se questo è il voto degli italiani, beh, ne abbiamo di strada da fare. Sì, lei ha fatto, sì, lo so, lei ha fatto il suo pistolotto generale, io volevo parlare dei cani e la sposta sugli umani, che in questo momento sono fuori, noi non ci interessa in questo momento cosa faranno gli umani, le loro scelte, il punto di vista dell'essere umano. No, rappresentiamo questa mattina una volta tanto, visto che non lo fa nessuno, tutti usano strumentalmente, anche per attaccare chi usa strumentalmente i cagnolini, parlare degli esseri umani. Questa mattina parliamo del punto di vista dei cani, questi poveri cagnolini. Cagnolini abbandonati, che nel loro abbandono avevano comunque una loro libera realizzazione, sono improvvisamente stati costretti, come appunto mi dicono, a rappresentare in maniera subalterna, assolutamente priva di autonomia, la loro povera immagine in televisione. Antonella? Sì, sono veramente perfettamente d'accordo. Oh, finalmente qualcuno che è d'accordo. Sennò sempre... ma assolutamente d'accordo. Raccoglie il plauso. D'accordo sul fatto che è assolutamente i simboli della politica non siano affatto casuali. È la scelta, sì, ma lei parli a nome dei cani, mi scusi, non continuiamo, siamo sempre, facciamo una trasmissione banalissima in cui parliamo di politica. Non sente uno struggimento in cuor suo, un senso di pena e un senso di rivolta, di desiderio di rivolta nel vedere questi poveri cuccioli così vilmente mostrati, semplicemente perché sono pelosi, carini, quando scorrazzerebbero felici nelle loro verdi praterie? Le dirò di più, io mi sento profondamente... come si può vicina, dire? Vicina. Una profonda vergogna, perché tutto questo è un simbolo di una vergogna ben più ampia di quello che potremmo solo relegare a questo episodio isolato. Appunto, io le dicevo, secondo me è molto importante, è proprio il segno dei tempi. Un cagnolino può mostrarci tantissime cose belle, ma soprattutto ci può mostrare che deve essere muto. Il cagnolino non parla. Però lei ha detto il cane deve essere muto, vorrebbe mettere il bavaglio ai cani. Io guardi, sono una situazione. No, no, al contrario. Capisca la mia situazione, sono circondato da pastori tedeschi, Doberman, che sono i rappresentanti sindacali dei poveri cagnolini. Per favore, ritorni sui suoi passi un attimo. Allora, confermi che i cani non devono essere muti, possono parlare. No, libertà no, di parola per i cani. Ma naturalmente, no, non è questo. Vorrei vedere voi. Ci mancherebbe altro, ho telefonato proprio per questo. Voglio dire che è comodo il cane, perché il cane non costituisce una critica, una contraddizione, una parola. Quel povero cane deve essere muto per qualcuno, non che il cane debba esserlo per sé. È d'accordo che debbano essere liberati comunque questi cani? Sono questi due cucciolini, fatto che noi siamo Empi e Vittoria, libertà per Empi e Vittoria, è d'accordo su questo slogan? Naturalmente sì. Lo dica, libertà per Empi e Vittoria. Libertà per Empi e Vittoria è per me che sono una donna, una cittadina italiana. Ma non è una cagna lei in questo momento. Esattamente come questi cani, questo è il punto anche importante. Ma non mettiamo sempre in primo piano la nostra condizione umana, diamo spazio almeno una mattina ai poveri cuccioli rapiti ai loro affetti. È direttamente collegata, non sono due cose. Da Levo Segare per dare l'informazione della borsa. Melog. La realtà condivisa. Questo qui. Sei pesante. E anche bavoso. Ecco qua. Questo è il padroncino che sceglie il piccolo Bolt, l'eroico cane, quando ancora era cucciolino. Stiamo questa mattina, sì, dando voce alla rappresentanza sindacale dei cani rognosi, pulciosi e abbandonati, che questa mattina ha invaso il mio studio per portare alla conoscenza del pubblico di Melog le istanze di Empi e Vittoria, i due cucciolotti che sono stati rapiti in diretta televisiva da due noti rappresentanti politici e portati via. E vogliono innanzitutto la loro liberazione e poi vorrebbero, se fosse possibile, di smettere di gettare enfasi su poveri cucciolotti come catalizzatori di tenerezza e di pietà. Altri, attraverso gli SMS, vogliono, ma è una sola illusione, farmi credere che magari questi due cani sono una sorta di cavallo di Troia. Mi dice un ascoltatore, la notte andranno a fare la popò sul cuscino dei due personaggi che li hanno presi. Ma non credo che sia assolutamente possibile questo. Piero, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo solo dire questo, che non sembra che i suoi cani oggi rappresentino bene la categoria, perché quei due cani erano comunque già due cani, diciamo, di una categoria superiore, nel senso che erano emancipati, erano già dei cani di razza. No, erano dei meticci, sembra. Sì, ma venivano da una selezione già fatta prima, non mi sembrava che. L'hanno scelti carini e mica potevano portarli con l'alopecia e con le zecche, chiaro, l'hanno messi bene. Non erano ben rappresentati, forse era meglio che ci andassero con l'alopecia, con le zecche, e almeno poi vedevamo i nostri politici se erano così capaci e di amare gli animali per la loro condizione naturale. Quella non era la loro condizione. Pensi lei, quando un cuccio ha l'enterite per casa, non è che sia una cosa piacevole. Quando c'ha la muta del pelo, quando bisogna mettergli quel cono al collo terribile che sbatte dappertutto perché magari si è fatto un'operazione, quando è anziano che comincia a avere i tumori, che gli si paralizzano le gambe. Quello devono curare i nostri politici, non devono curare il bello, quello che già gli è stato presentato, già impacchettato e infiocchettato, caro Nicoletti. Quindi mettete in braccio un cane con la rogna, poi vediamo se hanno il coraggio di baciare la piaga del lebbroso come faceva Madre Teresa di Calcutta. Mi sembra un'ottima proposta. Emanuele. Sì, buongiorno. Però come vedi, si sta articolando il dibattito, ha ragione. A me, mentre parlava, mi ha fatto venire in mente il film Il pianeta delle scimmie, quando la bambina scimmia prende al guinzaglio la bambina essere umano e la tratta come noi trattiamo i nostri cani. Sì, una realtà rovesciata, certo. Sì, esatto. E mi viene in mente, io ho finalmente una trasmissione che, perché io quando lo dico sembra che vengo trattato peggio di un bestemmiatore, perché secondo me dovrebbero essere liberi questi cani, invece torturati adesso addirittura dagli smartphone, fotografati, messi in webcam perché devono essere visti, e questi cagnolini terrorizzati a che fare con la nostra tecnologia. Io sono dell'opinione che vanno liberati. Ha naturalmente tutta la rappresentanza sindacale battendo le mani a una ola. E sono felice. No, anche perché il Doberman del comitato aveva le zanne appoggiate alle mie parti molle, ecco, pronto a se avessi detto qualcosa. Quindi mi fa piacere. Allora, andiamo al punto, che voglio entrare nella dissertazione tecnica. Vincenzo Cosenza, buongiorno. Ci siamo sentiti qualche giorno fa. Vincenzo Cosenza, che è una persona seria, a differenza di quello che siamo noi, è responsabile blogmeter.it, che è un servizio di ascolto dei social media, dove misura e visualizza quelli che sono, diciamo, i vari flussi di attenzione rispetto a personaggi politici, brand, aziende, via dicendo. In questi ultimi giorni, Vincenzo, ho notato delle flessioni nel genere cyberanimalista, diciamo. I cuccioli portati improvvisamente dalla politica alla ribalta delle grandi tribune televisive hanno cambiato qualcosa? Beh, diciamo, ci sono stati dei movimenti, per esempio la foto di Monti su Twitter ieri ad oggi ha 1600 interazioni, cioè la più virale di tutta questa settimana. Quella di Berlusconi in realtà non ha avuto così tanto risalto, forse perché non era stata amplificata da una trasmissione televisiva. Sì, poi era statica, un cucciolo in braccio, una foto così poco, lì c'è stato proprio tutto l'accompagno, l'affido, non è un bambino ma è un cucciolo, l'imbarazzo, era perfetta come situazione. Assolutamente sì, e come ci eravamo detti qualche giorno fa, e la televisione, quindi la nuova abitudine degli italiani di commentare la televisione attraverso la rete, che ha amplificato molto questo effetto. Poi c'è stato un punto di coincidenza. Allora, la rete già è molto sensibile al discorso cagnolino abbandonato, gattino bastardino, poverino, schiacciato, maltrattato, ferito e via dicendo. Mettendo queste due cose insieme c'è stato il cortocircuito. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche su Facebook, infatti, questa foto ha oltre 3.000 interazioni, e su Facebook uno dei profili politici più engaging, quindi più animati, è proprio quello dell'ex ministro Brambilla, che fa della battaglia animalista un punto di forza, quindi a dire proprio che questo tipo di cose effettivamente funzionano sempre in ogni caso. Assolutamente, nascondersi dietro dei cagnolini e dei gattini in un profilo Facebook o in una serie di messaggi su Twitter crea comunque consenso, perché c'è un'infinità di pubblico del web 2.0 che non chiede altro di meglio che mettere un like, un mi piace, un sono contento, un aderisco, un diffondo. A me mi arrivano non so quante segnalazioni di cucciolate intere abbandonate. Sembra che in Italia si abbandonino più cuccioli di quanto si buttino bottiglie di plastica nei cassonetti. È vero, però allo stesso tempo la mossa di Monti, quindi lo spin degli esperti comunicatori di Monti, a questo si contrappone anche un controspin, una contronarrazione della rete, che poi ha utilizzato quella foto anche per fare dell'ironia, quindi per esempio associando il Presidente del Consiglio al cattivo di James Bond, oppure... Il capo della Spectra, anche lui aveva un gatto che lo accarezzava sempre. Nuovi come Yes, un cane, e quindi c'è una contronarrazione della rete che un po' cerca di bilanciare lo spin politico che viene dall'alto, no? È stato usato al contrario per attaccare uno dei candidati che è Giannino, il fatto che lui avesse un gatto che scorazzava per la redazione, l'ha detto Sallusti proprio a questa radio l'altra sera, il gatto di Giannino, che è un elemento che lui ha usato spesso anche quando parlava alla radio, è diventato improvvisamente elemento di disturbo, sporcava, puzzava, andava in giro, quindi mi sembra feroce, violenta e consistente l'entrata dell'animale in questa campagna elettorale. Sì, assolutamente sì, è molto forte. E adesso magari ne vedremo ancora delle belle. Ecco, visto sì, io penso che non sia finita. Grazie Cosenza. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io vorrei ricordare il grandissimo affetto di Adolf Hitler per il suo cane, un pastore tedesco di sesso femminile. E anche Himmler e la maggioranza delle SS amavano profondamente i loro cani, anzi il rispetto del cane, l'amore per il cane, era un punto essenziale per restare umani. Restiamo umani era lo slogan di Himmler, evidentemente lo slogan di tutti quelli che si divertono ad assassinare gli ebrei. Dunque torniamo a noi. Senza voler bloccare l'essere umano a cinque caselle, nella nostra mente ci sono dei sistemi che ci permettono di organizzare la nostra psiche e che sono preordinati. Il primo fondamentale è l'accudimento, attaccamento. Quando nasco mi attacco a papà e mamma, o se non a papà e mamma, alle infermiere, a chi trovo sulla mia strada, i quali mi accudiscono. Se questa cosa non funziona, la persona è morta. L'attaccamento, accudimento è basato sulle endorfine, cioè è un piacere, altrimenti non lo faremmo, i bambini creperebbero. Quando la mamma tiene in braccio il suo bambino e lo allatta, la mamma produce endorfine. Quando il bambino sta in braccio a mamma che lo allatta e dice come sei bello figlio mio, produce endorfine. Ma viene quando anche con i cari, anche un cane produce endorfine. Esatto, quando noi accoccoliamo il nostro cane, noi produciamo endorfine e lui produce endorfine. E questo è il motivo per cui ci teniamo in casa queste squadre di... Quindi è una droga praticamente, un cucciolotto? No, non una droga. La droga è il sostituto del neurotrasmettitore. Come succhiare i rospi, come una volta facevano i fricchettoni. Più o meno. La droga è il sostituto del neurotrasmettitore. La droga che sta sul sistema accudimento... attaccamento è la morfina con i derivati oppio, eroina eccetera, che somigliano alle endorfine. Ma il mio neurotrasmettitore non è la droga, è una roba che io mi produco in casa. Poi gli altri sistemi sono quello competitivo, basato sulla dopamina, e lì la droga ovviamente è la cocaina. A seconda di qual è il sistema motivazionale, c'è una droga che sostituisce il neurotrasmettitore. Ferma Silvana, perché è troppo importante. Devo dare le informazioni del traffico. Praticamente ci stai dicendo che mostrarsi con un cucciolo in braccio è come mostrarsi in un momento di tossicità. È come vedersi farsi una pista di cocaina e sniffarsela. Melog, la realtà condivisa. Riprendiamo la nostra interessante trasmissione proprio perché ha avuto un punto clou, una deriva inaspettata. Silvana De Mari, scrittrice fantasy, saggista ma anche psicoterapeuta, anche donna che ha conosciuto profondamente il mondo in tutti i suoi aspetti più cruenti, è stata in Africa tanti anni a deinfibulare le ragazze infibulate, quindi conosce esattamente ciò di cui parla, ci dice che in realtà avendo una sorta di scatenamento di neurotrasmettitori, quando per un ordine naturale una madre tiene in braccio un bambino, si scatenano le endorfine e via dicendo, il cucciolo crea lo stesso effetto. Se non ho mal capito, avere un cucciolo in braccio, accarezzarlo e farsi accarezzare, si crea un'azione simile a quella che uno si facesse una sostanza psicotropa. Esagero, Silvana? No, si crea un'azione infinitamente superiore. E che mi evita poi di dovermi fare una sostanza. Quindi è come mostrarsi in un momento che uno si sta drogando, sta facendo un fiasco di vino, la stessa cosa. E in un certo senso le droghe sostituiscono l'incapacità dei poveri babbei di essere i padroni della propria mente e dei propri neurotrasmettitori. Tutto qui. Noi abbiamo la capacità di modificare i nostri neurotrasmettitori. Banalmente, mi produce endorfine, fare l'amore, non sempre si può, mangiare cioccolato, carezzare un cucciolo, carezzare mio figlio, ho visto che mio figlio è più alto di me, parlare a mio figlio per telefono quando mi racconta l'ultimo film che ha visto, che gli è piaciuto, qualche altra cosa di questo genere, la musica, la letteratura, vedere un bel film, ascoltare una bella fiaba se ho 3 anni, ascoltare un buon audiolibro, eccetera. Quindi chiunque abbia in tasca le monetine d'oro riesce sempre a rimettersi a posto i neurotrasmettitori. Io sono stata sempre un proprietario di cani. Vicino a me c'è sempre stato un cane ed era una cosa che mi metteva da pazzi. Camminare col cane, scrivere col cane seduto sui piedi è un'altra cosa. Visto che le endorfine me le produco da sola, grazie, non ho bisogno di andare da nessun pusher. Tutto qui. Allora, per effetto simpatia, mostrarmi con un cucciolotto tenero addosso o mettere la foto del cucciolotto in internet crea subito una sorta di circolo empatico con le persone. Quindi ha ragione Monti che l'ha ribattezzato empico il cane, empatia. Assolutamente sì, e si va sul sistema accudimento. Ma attenzione, può essere una truffa, può essere vero, ma può essere una truffa. Non è vero che coloro che si fanno fotografare col cagnolino in braccio siano sempre persone accudenti. Il cane in alcuni casi, vedere Hitler, vedere Himmler, vedere le SS, è il sostituto di menti troppo deficitarie per amare l'uomo. A volte il fatto che chi ama i cani ama anche gli uomini è vero. Ma tu come ti spieghi allora nel web 2.0, non so quanto tu possa frequentarlo, in realtà è un fenomeno dirompente. Non esiste giornata che non ci sia qualcuno che ti manda una foto di gattini, di cagnolini, ma siano essi perfettamente puliti e batuffolosi, siano essi corrosi dalla sporcizia e dalle malattie pelose e via dicendo, sempre lanciando un appello. Ci c'è questa povera cucciolata di canini abbandonati, questa è umanità, questa è lo schifo, e tutti intorno a scrivere che bello, aiutiamoli, facciamo qualcosa. Se io mettessi scritto senza foto, ci sono 4 ragazzi abbandonati in un orfanatrofio che guardano il muro e non hanno nessuno che nemmeno loro dia una carezza, non susciterebbe tanta attenzione. Come mai? Certo, è proprio così. Una mia amica ha messo su Facebook la notizia di una bambina saudita assassinata dal padre. La notizia ha ottenuto un 5-6 mi piace. Con questo non voglio dire che alla gente piaccia quella cosa lì, ma vuol dire l'interesse per quella notizia. La notizia sul cagnolino ucciso ottiene migliaia di mi piace, cioè di interesse. perché siamo in un periodo di altissima empatia, ma attenzione, stiamo ci rischiando di andare verso il sentimentalismo invece che verso il sentimento, cioè verso la produzione scadente, verso il fingere, verso una roba facile. Nel momento in cui mi commuovo davanti al cagnetto abbandonato, io non rischio di violare il politicamente corretto. Lo posso fare, tutti mi vorranno bene. Quindi si trova un'area comune, limacciosa, ipocrita, finta, lontana anni luce dal vero senso della pietas verso un qualsiasi essere vivente, nella quale sono tutti d'accordo, si sta tutti bene, non si rischia nulla. Esatto, ma se comincio a scrivere sulla bambina dodicenne lapidata in Iran, io sto giudicando la cosa degli altri. Un fatto culturale. La bambina di 11 anni venduta nel campo Rom per 12.000 euro a uno che non aveva mai visto e aveva 60 anni. Come mi permetto di? E allora perché non penso a cosa ha fatto la mia civiltà prima di giudicare quella degli altri? Mentre il cagnetto, ragazzi, tutti mi amano. Non c'è nessun tipo di relativismo. Sul cagnetto è il pensiero assoluto. Sentiamo Angela. Angela, buongiorno. Angela, buongiorno. Buongiorno, Angela. Buongiorno. Io penso che quei due cani debbano essere liberati subito, perché secondo me saranno finiti in mano a qualche giardiniere. Lo dica, Empi Vittoria, liberi subito. Faccia sentire sì. La sua voce. Lo dica. Sì, devono essere liberati subito. I nomi deve dire, se no l'appello non funziona. Empi Vittoria. Empi e Vittoria. Empi e Vittoria. Devono essere liberati subito perché sono finiti in mano a qualche giardiniere che li deve accudire. Perché altrimenti sporcano i tappeti, altrimenti sporcano i vestiti, non li prenderanno in braccio, non gli faranno le coccole, non si faranno leccare ovviamente, perché altrimenti... Anche perché appena usciti dall'estetista degli studi della Sette, probabilmente sono belli, profumati, certo, e batuffolosi. Un cane, certo, soprattutto questi giorni che piove, dopo 2-3 giorni comincia a avere quella sana puzzetta di marcio, puzzetta. Che lo sa chi c'ha un cane in casa. Infatti io ho un cane in casa, per cui so come... Quando piove sente quella bella puzzina di cane marcito, che sì, c'è, è chiaro. Certo, però io me lo tengo ugualmente in casa. Loro non so se lo terranno in casa, perché altrimenti sporca, altrimenti... No, rimane addosso anche al padrone l'odore, anche i peli. Sì, rimane anche al padrone. Adesso è primavera, sì, è stagione di muta, soprattutto Empi, che è così bella pelosina. Fra una settimana lascia i peli a ciuffi, e come si, come si spiega? Sì, uno va in televisione con i ciuffi di peli sulla giacca, non si può. No, non si può. E poi comunque, altrimenti il cane disturba, non è, magari anche in casa, sporca i tappeti. Silvana De Mari, non trovi che ci sia anche una forza di edulcorazione? Come mostrare solo l'aspetto bello? Nessuno dice gli aspetti poi anche meno gradevoli della gestione di un animale, che ci sono, fa parte del gioco. Sì. Questo è il motivo per cui il cagnetto è meglio che nessuno. Quando ha l'enterite ti fa la cacca in casa, non ci sono, esatto, santi. Se proprio il cagnetto lo volevi, eri certo di volerlo, gli pulisci la cacca dicendo porca miseria, vabbè, prima o poi ci avrà 6 mesi e non la farà più, ma lo fai. Se uno te l'ha messo in braccio, cioè il cagnetto dà molta più gioia di quanto uno pensa, questo è vero, scusate ma sono sempre avuti, ma dà anche molte più rogne di quello che uno ha mai pensato. E i cani sono come i bambini, se uno poi se li deve tirare su lui e non può fidargli a qualcun altro. Poi c'è un fatto, scusa Silvana, chi ha cani lo sa, il cane nell'ordine naturale delle cose muore prima di noi, è un lutto simile a quello di un essere umano quando ti muore un cane. Spezzandoci il cuore, è la loro stupidissima caratteristica, questa abitudine idiota di morire dopo 10, 12, massimo 15 anni. Sono proprio stupidi. Io ho un perfetto ricordo di un funerale fatto a mio cane e mi ricordo che per esseri umani che mi sono morti provai dolori molto simili o forse anche inferiori. Chi non ha cani in casa non capisce. Cambiamo argomento, perché da poche settimane ho dovuto far sopprimere Favola perché aveva un terribile cancro dello stomaco e del pancreas. E anche questa è una scelta dolorosa, però è una scelta che un essere umano che è consapevole di quelli che sono i cicli della vita sa che a un certo punto bisogna anche scegliere questo, certo, che il proprio cane è talmente malato e va fatto sopprimere. E tutto questo aspetto così doloroso, naturalmente portarlo alla luce inquinerà la felice, splendida, cucciolosa e batuffolosa immagine dei cucciolini che tanto piacciono alle mamme, ai bambini, agli uomini e anche ai cani. Melog, la realtà condivisa.